Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'Isola di Arturo, di Elsa Morante. Nell'ultimo tratto del viaggio, un interesse sottile prese a stimolarmi. Difatti, questa era la prima volta, dopo molti anni, che la casa dei Guaglioni riceveva una donna, e la mia incredulità giocava con una certa aspettativa curiosa. Che avverrà fra poco, nel momento che oltrepasseremo la soglia insieme a lei? Quasi incominciavo ad attendermi un qualche segno misterioso e premonitore, una scossa terribile delle mura, ma non avvenne proprio nulla. La sposa avanzava nelle stanze come se visitasse una chiesa. Credo che nella sua esistenza non avesse mai veduto una dimora imponente come la nostra. Più di tutto il resto, però, la colpì la cucina. A quanto pareva, uno stanzone simile, provvisto di tanti fornelli e che serviva soltanto a cucinare, per lei era una meraviglia straordinaria. Tuttavia, tenne a farci sapere che una signora, conoscente di sua sorella, aveva pure lei in casa una cucina, dove si andava solo per cucinare e per mangiare. Certo, però, non era grande quanto la nostra. A tale discorso mio padre rise in faccia alla sposa e, rivoltosi a me, mi spiegò che lei, nella sua casa di ragazza a Napoli, dove abitava con tutta la famiglia, aveva per cucina solo un fornello a treppiede, che d'inverno s'accendeva in camera, sul pavimento, ed estate in strada, per terra davanti alla porta. Anche la pasta la facevano in camera e la mettevano ad asciugare sui ferri del letto. La sposa ascoltava simili spiegazioni di mio padre guardandoci con i suoi occhioni, senza dire nulla. «Lei», egli proseguì nel medesimo tono di derisione e di compatimento, «non sa fare altro che queste tre cose. La pasta, togliere i pidocchi di testa a sua madre e dire l'Ave Maria e il Padre Nostro». Qui essa apparve confusa e dette un piccolo urto di gomito a mio padre, come a pregarlo di non continuare più, perché lei si vergognava. Mio padre l'adocchiò senza darle nessuna importanza. «Da oggi, però», soggiunse con aria ostentata, «è una gran signora, la signora Gerace, la padrona di tutta Procida». Poi, d'un tratto, quasi a tradimento, mi volse la domanda inaspettata. «Tu, Moro, a proposito, quando le parli a questa sposa, come la chiamerai? Bisogna mettersi d'accordo». Io mi tenni in guardia e rimasi a bocca chiusa, accigliato e fiero. Essa mi guardava timidamente, infine sorrise e con molto rossore, abbassando gli occhi, rispose a mio padre al posto mio. «E lui non ha conosciuto mai la madre, povero piccerillo. Per me il sentimento di fargli da madre, io ce l'ho. Ditegli che mi chiami, ma, e io sono contenta». Questa era proprio la provocazione più audace, più ingiuriosa che potesse venirmi da quei due. Il mio viso dovette esprimere una rivolta così selvaggia che mi imposi perfino a mio padre. Egli disse in tono indifferente e quasi di lieve scherno verso di lei: «Niente da fare, non vuole chiamarti, ma... Beh, ragazzo, chiamala come credi, chiamala col suo nome, Nunziata, Nunziatella». Invece io non solo quel giorno, ma anche in seguito evitai di chiamarla pure con il suo nome. Per rivolgermi a lei o richiamare la sua attenzione, le dicevo: «Senti, di, tu», o magari fischiavo. Ma quella parola, Nunziata, Nunziatella, io non avevo voglia di pronunciarla. Thank you. sposa parve domandarsi se ormai, qui nella cucina, potessimo considerarci arrivati a casa nostra e il suo viaggio di nozze finito. Dapprima ne interrogò con gli occhi mio padre, ma poiché lui in quel momento non le badava, si decise per proprio conto e risolutamente si sfilò dai piedi le scarpette dai tacchi alti. Evidentemente non vedeva l'ora di liberarsene. Con molto rispetto le depose sopra una sedia e da allora io non gliele ho riviste addosso mai più. Essa le teneva sempre riposte, come sacri tesori, insieme ad altri ornamenti del suo corredo che non usava mai. Fui soddisfatto di vederla diventare più piccola, senza quei tacchi alti. Adesso la differenza fra le nostre stature, che tanto mi umiliava, appariva quasi trascurabile. Dopo le scarpe, essa si tolse anche lo scialle, che fermato con una spilla sotto il mento, le avvolgeva il capo, e apparvero i suoi capelli, tirati su e tutti stretti con una quantità di pettini, fermagli, forcine. Questa cosa risvegliò l'attenzione di mio padre, che si mise a ridere. «Ma che hai fatto?» le disse. «Ti sei tirata sui capelli. È stata mammata. No, non mi piace. Tanto si vede lo stesso che non sei una femmina grande. Vieni qua, voglio rifarti io, bella, come piace a me». Ella ci guardò, sottomessa ma esitante. E per colpa di questa esitazione, la volontà di mio padre si accese più forte. Con un'animazione inaspettata, impetuosa, egli le ripeté di avvicinarsi. Allora, io potei vedere la paura enorme che essa aveva di lui. Pareva dovesse affrontare un brigante armato, e stava là, combattuta fra l'ubbidienza e la disubbidienza, senza poter decidere quale delle due la spaventasse di più. E mio padre con un passo la raggiunse e l'afferrò. Essa tremava con un'espressione selvatica, quasi che lui l'avesse presa per malmenarla. Mio padre, intanto, ridendo, le strappava i fermagli ai pettini e le disordinava i capelli con tutte e due le mani, e pettinine e forcine cadevano da ogni parte. Una grande capigliatura nera, tutta di riccioli e boccoli naturali, come una pelliccia selvaggia, le scendeva scompigliata intorno al viso, fino alle spalle. Il suo viso s'era fatto ombroso e quasi protervo, e nei suoi occhi s'era acceso uno splendore di lacrime. Essa non ardiva, però, di schivare mio padre. Solo, quando lui ebbe finito di disfarle i capelli, squassò forte la testa, con l'atto che si vede fare talvolta ai cavalli o anche ai gatti. Io guardavo incuriosito tutti quei riccioli, anche perché m'era tornata in mente una certa frase detta pochi minuti prima da mio padre. Ma egli indovinò il mio dubbio e mi disse: «Che ti immagini tu, Arturo? No, no, l'hanno spidocchiata bene per le sue nozze». Egli la tratteneva per la gonna, ma essa non tentava neppure di fuggire. Con una mano stringeva sempre la sua preziosa borsetta, nascondendola un poco dietro il fianco per proteggerla dalla turbolenza di mio padre, e rimaneva docile fra noi due di fronte alla porta vetrata. Adesso le sue iridi, che nella penombra erano nere nere, rivelavano screziature diverse, come le penne dei galletti. Il cerchio invece che le disegnava le iridi era proprio scuro morato, simile a un orletto di velluto, e intorno il bianco dell'occhio si serbava ancora in tinto di viola azzurrino, come nelle creature piccole. Le sue guance erano piene e rotonde, come in quei volti che, ancora, non hanno preso la forma precisa della gioventù, e i suoi labbri, un poco screpolati dal freddo, somigliavano a certi fruttini rossi, sempre un poco rosicchiati dagli scoiattoli o dai conigli selvatici che crescono a Vivara. Adesso, che m'appariva per la prima volta in piena luce, la sua faccia dimostrava ancora meno delle tacche io le avevo dato da principio sul molo. Se il suo corpo, alto e sviluppato, non l'avesse smentita, si sarebbe creduto a vederla che essa era ancora negli anni dell'infanzia. Mentre si riassestava per istinto i capelli, ella non sapeva liberarsi, tuttavia, dalla sua misteriosa paura e aveva un'aria sperduta di allarme vicino a mio padre. Mio padre fece sventolare con una scossa impetuosa il lembo di gonna per cui la tratteneva e la lasciò. «Io», le dichiarò in tono capriccioso e avverso, ho preso una fidanzata ricciolella e voglio una moglie ricciolella. Essa rispose con voce mite e tremante: ma io mica vi porto collera se mi avete disfatti i capelli. Voi ditemi la vostra volontà e io faccio come volete voi. E che nascondi là? Le disse mio padre. Avanti, su, mostraci i tuoi gioielli. E con una risata aggressiva le strappò di mano la famosa borsa, rovesciando sulla tavola tutto quello che conteneva. Erano sul serio dei gioielli, un mucchio di bracciali, spille, collane, quasi tutti regalati lì da mio padre durante il fidanzamento. Io, che non ero esperto di simili cose, ritenni da principio che fosse tutto oro vero, topazi, rubini, perle, diamanti veri. Invece erano gingilli falsi comperati alle fiere o sui carrettini. Mio padre l'aveva conquistata con dei pezzi di vetro, come si fa con i selvaggi. Di vero, in quel mucchio c'era solo qualche ramo di corallo e un anellino d'argento con una Madonna incisa che le aveva regalato la sua comare per la cresima e che adesso non le entrava più. Tutti quei gioielli essa non li portava mai. Li teneva riposti nell'armadio con adorazione religiosa. Addosso non portava altro che gli orecchini della comare, la medaglia d'argento col Sacro Cuore infilata a un cordoncino e la fede. Ma questi, per lei, non erano nemmeno dei gioielli, erano parte del suo corpo, come i riccioli. Gli sguardi che essa dava, sottomessi ma molto franchi e pieni d'onore, e sempre accesi da un'allegrezza e da una specie di preghiera, mi ricordavano qualcuno. Ecco chi! Immacolatella! Lei pure aveva uno sguardo simile, come se sempre vedesse il miracoloso Iddio. In attesa di mio padre, io mi ero seduto sullo scalino della soglia. Quel punto della casa era al riparo dalla tramontana e il sole vi s'attardava prima di scendere posandovi quasi un lieve tepore. Poco dopo, essa pure venne a sedersi sullo scalino accanto a me e incominciò a districarsi alla meglio i capelli con uno di quei pettinini sdentati che aveva raccolto. Si sentiva il mare battere giù alla mia spiaggetta e ogni tanto il fischio della tramontana sull'isola. Io stavo muto. Essa disse: «Adesso no, ma da ragazza mia madre teneva lei pure tanti capelli come me. Mia sorella invece tiene pochi capelli». Poi, avendo finito di pettinarsi, esclamò: «Madonna, ma quanto è rosso il cielo stasera!» E aggiunse sospirando, in tono grave e incantato, ma non amaro, come se riconoscesse obbediente le leggi dello sposalizio nel suo proprio destino: «Pensare, questa è la prima volta che mi trovo lontano dalla casa mia!» Mio padre, nel deporre in camera la propria valigia, mi aveva detto di portare quella della sposa in un'altra stanza di rimpetto alla sua, dove c'era un armadio e un lettino di ferro. E lui stesso, poco dopo, venne a portarvi il materasso e le coperte. Ma la sposa, che da principio pareva molto soddisfatta di avere una stanza apposta per la sua roba, all'intendere che quella stanza le era riservata anche per dormirci la notte, si spaurì. E nonostante la soggezione che aveva di mio padre, incominciò a ripetere ostinatamente che questa cosa non era possibile, che essa aveva paura di passare la notte in una stanza da sola e che voleva dormire insieme agli altri. Mio padre la stava a sentire piuttosto infastidito da una simile novità, perché era avvezzo a non dividere la propria camera con nessuno. Ma vedendo che lei addirittura si sbiancava in viso per lo spavento, si volse a me e mi disse spazientito: «E va bene, me la terrò in camera mia con me. Forza, Moro, aiutami ad alzare questo letto». E insieme, lui ed io, trasportammo di là in camera sua il lettino della sposa. Essa ci seguì contenta. Il nuovo lettino non poté trovare posto a fianco del grande letto di mio padre, che occupava quasi tutta la parete di fondo, e lo mettemmo per traverso, con lo schienale contro la parete più lunga, in modo che veniva a trovarsi quasi ai piedi del letto di mio padre. Appena vide sistemate in tal modo le cose, la sposa, che voleva far mostra di aiutarci, si dette a sbattere e a rivoltare con grande ardore i materassi e i cuscini pieni di polvere. Fra tali fatiche, ella domandò a mio padre, in tutta naturalezza: «E adesso da stanotte io dormirò nel letto matrimoniale insieme a te, al posto di Arturo, e lui dormirà qui, nel lettino?» La sua convinzione, evidentemente, era che io non avessi la camera mia per dormirvi la notte, ma fossi abituato invece a dormire insieme con mio padre, nel suo stesso letto. A simile, nuovo indizio della sua ignoranza, io mi limitai a ridere. Ma mio padre, che era già piuttosto annoiato per il trasporto del lettino, alzò con disprezzo una spalla e le disse, piegando i labbri in aria di canzonatura e rifacendole un poco il verso: «No, signora, tu quando mi sarà venuto sonno dormirai nel letto piccolo. Io dormirò nel letto mio grande, dove ho sempre dormito, e Arturo dormirà nel letto suo, in camera sua, dove ha sempre dormito». Poi, armandosi di una collera ostentata, le gridò: «Ti devi ricordare, guaglio, che tu qui non sei in mezzo alla pezzentaglia a una tribù. Qui sei nel castello dei Gerace. E se dici ancora qualche altra indecenza, ti mando a dormire lassù, a quell'altro castello fra le guardie e i galeotti». E così detto, sputò e andò a raccogliere da un angolo la propria valigia, portandola nel mezzo della stanza e incominciando a slegarne la corda d'intorno. Io non lo avevo ancora mai veduto avventarsi contro qualcuno con tanta enfasi e rancore. Con me, le volte che aveva qualche sua ragione da redarguirmi, si sbrigava con poche parole senza importanza, con bruscheria accigliata e quasi distratta. Adesso, questa scena con la sposa mi manifestava una nuova forma dei suoi umori, a me misteriosi com'era misteriosa e indiscutibile la sua giustizia. E nell'assistervi io avevo sentito i miei nervi contrarsi, quasi che stavolta anch'io dividessi la paura della sposa. Alla fine, Quando egli le lasciò i polsi e si staccò da lei, provai il sentimento di una oscura liberazione. Aperta la valigia, egli, mezzo inginocchiato in terra, si dette a vuotarla in disordine, come sempre faceva. In quel momento, la sposa s'era messa a osservare il ritratto dell'amalfitano e domandò «Chi è?» E lui, sbadigliando, le rispose «È un'immagine santa che protegge il castello!» E aggiunse in tono insidioso, sdraiandosi sul letto «Come in tutti i castelli, anche qua c'è un antenato morto che seguita ad andare in giro. Quello è il suo ritratto. Sta attenta, che quel morto non venga a trapassarti il cuore mentre dormi!» A tale risposta, ella, come prima, guardò la mia faccia, ma stavolta non vi lesse né una conferma né una negazione. Alzò una spalla sorridendo e sussurrò «Ma se uno ha la buona coscienza, perché deve temere il castigo?» «Perché lui, le disse mio padre, odiava tutte le donne.» «Come? Odiava tutte le donne?» «Già, e se fosse stato lui il padrone dell'universo le avrebbe ammazzate tutte.» «Ma se non ci sono più le donne, finisce questo mondo.» Mio padre appoggiò la testa sul braccio ripiegato e ridendo sogguardò la sposa con un'espressione avversa e subdola e disse «E che gliene importava all'amalfitano di far continuare il mondo? Tanto lui è morto. Che soddisfazione gli dà a lui la continuazione del mondo?» «Ma come? Era cristiano e faceva di questi pensieri!» Ella disse incrociando le due mani sul petto come per armarsi nella lotta fra la propria timidezza e i propri sentimenti. Il viso le palpitava in un modo che io, guardandolo, mi figurai il suo cuore che batteva simile a un uccellino appena rubato dal nido, rinchiuso dentro il pugno. Chinò un poco la testa sulla spalla, dondolandosi ora su un piede, ora sull'altro, e alla fine interrogò sommessamente. «E perché le odiava?» «Perché», rispose mio padre ributtando giù la testa sul guanciale, «diceva che le donne sono tutte brutte.» «Tutte brutte? Ma come? Tutte quante brutte? Ma allora, ma come? Tutte quante? Allora pure quelle che lavorano al cinema sono brutte?» «Ma che ne sai tu del cinema?» disse mio padre stirandosi con una voce pigra e strascicata. che ci sei stata una volta sola che ti ci ho portato io e si dava un film sui peli rosse. A tali parole io pensai, con un certo dispetto, che allora su questo punto io mi trovavo più indietro di lei, giacché a Procida non c'era nessun cinematografo e io non avevo mai veduto nessun film in tutta la mia vita. La sposa replicò, mal sicura: «Mia sorella c'è stata. Ce l'ha portato un parente nostro che sta a Nola, un bravo cristiano. È stata a vedere quell'altro film, il nome non me lo ricordo, ma lì quelli che ci lavoravano non avevano la pelle rossa. E poi le artiste si vedono anche pittate sui cartelli, si vedono per Napoli». «Continua, sì, continua a discorrere di quelle male femmine», esclamò beffardamente mio padre. «Così fra poco ci divertiremo a vederti cascare la lingua. Ma non lo sai che il diavolo fa cascare la lingua a chi parla di schifezze e di male femmine? Tua madre non te l'ha detto?» La sposa si fece rossa. Mio padre sbadigliò: «E po' sta zitta, ma che capisci tu? E smettila, non ho voglia di discutere con te sulla bellezza». Mortificata, essa tentò, tuttavia, di mettere avanti un altro esempio più degno, che la riscattasse dall'esempio indecoroso usato prima, e disse: «E la regina? Allora pure la regina è brutta». Mio padre rise, schiacciando la bocca contro il cuscino con tanto gusto che pareva lo volesse mordere, e anch'io risi. Essa ci guardò sperduta, l'uno e l'altro, cercando, forse, nella sua mente soggetta, un ultimo argomento di difesa. Infine, i suoi occhi nel guardarci si rannuvolarono e con voce impetuosa, tremante, essa ci propose l'argomento supremo. «La Madonna?» disse. «Pure lei è brutta. La Madre di Dio!» Mio padre chiuse gli occhi. «Basta!» disse. «Ho sonno. Voglio riposarmi un'ora o due. Su, andate via, lasciatemi solo, ci rivediamo più tardi». Uscimmo silenziosamente dalla sua camera e ne chiudemmo l'uscio. Sul corridoio la sposa, a bassa voce per non disturbare mio padre, mi chiese di farle compagnia mentre toglieva la sua roba dalla valigia, perché non si era ancora abituata alla casa e le faceva paura di trovarsi sola in una stanza adesso che era quasi buio. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.